programma. Inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. E come ogni sabato, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, eccomi qui con un ospite un po' particolare che presenterò tra poco. Lo trovo un po' fibrillante, ma adesso sicuramente si darà una calmata. Sta facendo scarabocchi su un foglio, questo serve a volte, no? Un po' così, a sfogarsi. Intanto però vi ricordo da subito, in modo che nessuno mi dica però tu non hai ricordato il numero dall'inizio, il numero verde per chiamare sulle notizie della settimana. Lo sapete, questo è un appuntamento mio con voi per fare un po' un bilancio dei fatti della settimana e ritornare con calma a dire le vostre libere opinioni su qualcosa che insomma vi ha colpito in modo particolare. Direi che le notizie anche questa settimana sono moltissime, come dico sempre, c'è l'imbarazzo della scelta, oppure è una scelta imbarazzante effettivamente. Partirei dalla cosa più insomma sconvolgente di questa settimana, la scoperta del cadavere della piccola Yara, e quindi questo caso, se volete, che cosa vi ha fatto pensare, che impressioni vi ha suscitato, anche se a volte ci si crogiola un po' inutilmente, no? In queste questioni c'è poco da dire per il momento, se non che trovare il colpevole. E poi la storia del ministro Copione, credo che sia una delle storie più interessanti degli ultimi tempi, così come emblema, diciamo, di un certo atteggiamento politico e anche di profilo istituzionale di un paese, in questo caso la Germania, che può essere affrontato magari ad altri. Poi sulla politica italiana, dal caso Ruby viene messo come priorità, ha detto la procura di Milano, il processo il 6 aprile. Berlusconi che ha annunciato, mi pare proprio oggi, stavo guardando i siti online dei giornali, una riforma epocale della giustizia, che già se ne parlerà settimana prossima. C'è sempre la Libia naturalmente in primo piano. Fini che ha detto che Bossi è il vero premier. Cosa ne pensate voi? Bossi veramente il vero premier? Insomma, sono moltissime notizie. Anche questa, per esempio, dell'alternanza dei conduttori, questa proposta di legge in Rai per il pluralismo, no? Siete d'accordo che ogni settimana andrebbe sostituito, che so, Santoro con un altro di orientamento culturale politico diverso, e così Floris e così gli altri, insomma questo alternarsi, queste targhe alterne, come è stato detto. Siete d'accordo? Inoltre, come sempre, che cos'è anche questa settimana che ci fa capire che non ci sono più le mezze stagioni, a parte che a Milano c'è il sole, già questo è una notizia, ma voi sapete cos'è il coguaro? Io mi ricordo. Oddio. Te lo ricordi cos'è il coguaro? Io me lo ricordo, e però sento, intanto avete sentito la voce così in sottofondo dell'ospite, e la sentivo da ragazzino, non ho più poi sentito questo nome, coguaro, è un animale il coguaro, non l'avete più sentito perché non si è vista da 30 anni. E allora, che cosa ha deciso il Dipartimento americano della pesca e della fauna, un po' come i dottori di Pinocchio che dicono se non è vivo allora vuol dire che è morto, se non è morto allora vuol dire indubitabilmente che è vivo. Dicono, hanno esaminato attentamente tutte le informazioni reperibili ultimamente su questo coguaro, che sarebbe il puma americano. Hanno detto non si vede più, allora effettivamente è estinto, quindi non ci sono più le mezze stagioni, manca ormai all'appello il coguaro, mentre è stato sostituito il coguaro, bisogna dire, dai ragni. Voi direte quali ragni? Bene, ci sono dei ragni particolari che hanno deciso di abitare coi loro nidi il serbatoio di un'auto di una marca specifica che è la Mazda. E allora sono state ritirate ben 65.000 auto Mazda per una possibile infestazione di questi ragni, che hanno così la passione di fare il nido nel sistema d'alimentazione in una parte del serbatoio. Questo può causare ovviamente un malfunzionamento. Una volta si diceva metti un tigre nel motore, adesso metti un ragno nel motore, qui sono parecchi. E poi mi fa sorridere la dichiarazione di un portavoce della Mazda, che ha detto proprio dell'azienda, ha detto testualmente così: non è ancora chiaro perché questo particolare tipo di ragno preferisce i modelli del 2009-2010 della Mazda 6. Insomma, anche i ragni hanno i loro gusti. Ma adesso, visto che lo trovo un po' scalpitante, signore e signori, andiamo a presentare l'opinionista estemporaneo di oggi. Filippo Facci. Io non sono né particolare, né fibrillante, né estemporaneo. Sono normale, ho chiesto prima un po' di acqua con le bolle, alias gassata. Ho provato alias ad agitargliela. Ecco, minerale, Giorgio De Luca è lì, grazie. Ed è stata ritenuta una richiesta stranezza. Un po' stravagante, diciamo. Sono un ospite normale, ben contento di partecipare a questo programma che, da quanto ho capito ora, si occupa semplicemente di tutto lo scibile umano. È bene. Molto interessante. Era una sorpresa che volevo fare a Filippo, e farà una sorpresa anche a voi, secondo me, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, in quest'ora. in cui cercherò... È arrivata, insomma, l'acqua gassata. Bene, grazie, grazie Giorgio De Luca, che adesso immediatamente accorre alle vostre telefonate 800 24 00 24, appunto per capire quali sono le vostre libere opinioni in libera trasmissione. Parliamo del coguaro, per sì, favore. Sì, parliamo del coguaro. Tu te lo ricordi? Hai fatto sì, hai fatto... Io come? Io da bambino, vero? Cioè... Sì. Sognavi il coguaro. Ma no, perché il coguaro, devi coguaro. Sapere, che compare particolarmente in alcuni fumetti, che sono quelli di Tex e di Zagor. E c'era sto coguaro che tutti Zagor. Non capivano che... Poi vabbè, molti l'hanno confuso col puma e con un'altra dozzina... Che è un puma americano però, il sì, coguaro. Un tipo... Sì, ci sono una dozzina circa di sottospecie proveniente anche dall'America del Sud. Ma sei informato e assolutamente, sicché accade che molti abbiano fatto confusione e abbiano pensato che continuassero a esserci. Invece il coguaro, cioè quello vero, il padre di tutti i felini americani, è estinto. È estinto, sì, l'ha sancito se anche ne sono accorti 70 anni dopo, vero? Ma è estinto. Vero. A volte, insomma, si hanno altre cose a cui pensare, poi a un certo ma punto posso fare una domanda io o sì, devo prego, dare solo? Prego. Perché anche io avevo visto la notizia dei ragni nelle macchine, però non avevo capito se il problema per cui hanno ritirato le auto cioè è stato sollevato dagli utenti, dagli oppure utenti. O dall'ente protezione animali, nel senso che non vogliono no, ammazzare i ragni stessi. Mettendo dentro la benzina, cioè, dagli utenti stessi che salviamo garage... i ragni dalle... No, no, no, no, dagli utenti stessi che hanno fatto questa sorpresa. Uno nella macchina si aspetta, a volte un topolino, un gatto che si mette nel... E tutti questi ragni che uscivano, una cosa un terribile. Io c'avevo infatti. Meglio avere un coguaro in casa, sinceramente, che un ragno. Comunque, più o meno ce l'ho. Ce l'hai il coguaro? Beh, ho un... Imbalsamato tu. No, no, no, però ho... Hai un gattone. Più di un gatto e ho un gatto che è... parentato abbastanza con un coguaro. Ti piacciono i gatti? Di solito gli uomini non piacciono, adesso uno dice ah va per categorie, però è abbastanza mi vero. Mi piacciono che i gatti, ne ho diversi, mi piacciono, io ho avuto diversi cani, ho avuto anche un paio di fidanzate. Molto bene, adesso abbiamo fatto il riassunto, diciamo, degli animali e delle esperienze vissute da Filippo Facci. Per chi non dovesse saperlo, è giornalista, naturalmente Filippo, scrittore, ha scritto diversi libri, tra cui Di Pietro, la storia vera, non ha particolari simpatie per Di Pietro, mi pare di capire. Filippo Facci lavora a Libero, hai collaborato col Foglio, col Riformista, hai anche una rubrica televisiva. Sì, ho una rubrichetta molto breve, una rassegna stampa particolare che faccio la mattina per motivi alimentari. E riesci a mettere insieme il pranzo con la cena, insomma, con beh, diciamo il pranzo. Giusto il pranzo, dipende poi, se sei esoso. Sì. Poi ogni tanto vado in giro a fare l'ospite, come adesso più o meno, beh, non si sa bene in base a quale ragione. Gratis però oggi, te lo dico subito nel caso ti venisse qualche dubbio. Allora, abbiamo già diversi ascoltatori, Filippo, a meno che tu non voglia dire, a parte il coguaro, abbiamo per esempio Lorenzo da Milano, Miriam dalla provincia di Verona, se hai già in mente, a parte il coguaro, una notizia della settimana, fra le varie elencate o qualcun'altra che vuoi tirare fuori tu? No. Niente. Va bene. Lorenzo da Milano. Pronto, buongiorno. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno, io volevo portare l'attenzione su una notizia che è passata quasi inosservata rispetto al clamore che altre richieste di condanna hanno avuto recentemente. Per un fatto grave, che sì, è quella di Cesare Geronzi per la vicenda sì, crack Cirio. Cirio, scusami. Esatto. Sì, questa persona attualmente ricopre una carica che mi sembra assolutamente incompatibile se si chiedono le dimissioni di altri. Cioè presidente delle assicurazioni generali. Generali, che è un gruppo che gestisce i risparmi di quasi tutti gli italiani, tra cui i fondi previdenza. E allora volevo sapere appunto come mai tutto il mondo politico che... ha fatto levate di scudi per altri casi, non dice nulla per questa cosa di una gravità inaudita in uno scenario nazionale che ricorda altri episodi spiacevoli come il crack ambrosiano e altre vicende su cui non è mai fatta completa chiarezza. Grazie. Grazie Lorenzo, hai voglia di dire qual è la tua, Filippo Facci, su questa storia di... Non ho un'opinione particolare, tranne quella che, come al solito, si finge di parlare di un paese normale. Questo paese normale non c'è, quindi è inutile fingere che in un paese che normale non è, una richiesta di rinvio a giudizio o un rinvio a giudizio possano rappresentare una pregiudiziale laddove spesso neanche il giudicato, cioè la Cassazione, cioè il terzo grado di condanna, spesso sono sufficienti per mandar via qualcuno da una carica. In altre parole, un rinvio a giudizio non si nega a nessuno, a meno che ci siano già dei fatti acclarati, e allora ogni scandalizzarsi lo trovo pienamente giustificabile. Vi ricordo, tra l'altro, non solo che la trasmissione poi sarà, una volta finita, riascoltabile sul sito di Radio 24, ma che c'è anche la pagina Facebook dedicata a Non ci sono più le mezze stagioni. E leggo velocemente alcuni dei commenti fatti questa settimana sulle notizie. Grazia di Palermo che dice: mi chiedo, a proposito delle dimissioni del ministro tedesco, mi chiedo allora, qui in Italia, per tutto ciò che combinano, si dovrebbero dimettere quasi tutti. Corrado di Torino dice: sono fiero di essermela fatta da sola, ovviamente immagino la Laura, per buttarla sul personale, dice, per una volta. Adriano da Venezia: questa è serietà. Comunque il ministro si è dimesso per le forti pressioni da parte dei media, il suo operato però è stato eccellente. Mi chiedo, dice Adriano, cosa è più importante, la morale o l'efficienza? Non è facile scegliere. Poi Giulia dice: ha avuto un gran coraggio, a quei livelli, date le sue capacità, avrebbe potuto trovare mille escamotage. E poi vari commenti anche sul fatto che il vero premier, come ha detto Fini, sia Bossi. Un ascoltatore dice: il vero premier in realtà è Tremonti. Poi un'altra ascoltatrice dice: Bossi è cotto, ma tutta la Lega che gli fa, gli dà manforte. E sicuramente, dice un'altra ascoltatrice, non si muove foglia che la Lega non voglia. Questo per quanto riguarda la politica. Miriam dalla provincia di Verona, qual è la tua notizia, Miriam? Sì, no, veramente io non ho una notizia personale, diciamo, ma mi volevo riallacciare alla notizia secondo la quale si dovrebbero alternare i conduttori televisivi, sì, una volta pro e una volta contro il governo. Le targhe alterne, allora, poi chiediamo a Filippo cosa ne pensa, Filippo Facci. Perfetto. Allora io vorrei dire semplicemente questo: se facciamo questa alternanza, allora alterniamo anche i telegiornali, per il semplice fatto che attualmente i telegiornali, mi riferisco a quelli della RAI, sono a favore del governo. Allora se magari facciamo, la mia è una provocazione. No, ma guarda, evidente. La tua provocazione, scusami Miriam se ti interrompo, l'ho vista proprio stamattina fare da Milena Gabanelli, giornalista e conduttrice di Report. No, lei diceva proprio questa cosa, allora bisogna alternare anche i TG. Esatto, perché altrimenti l'opposizione o comunque chi non è d'accordo, chi vuole pensarle in maniera un po' diversa, non potrà mai più esprimere la propria opinione, insomma. Anche perché volevo anche aggiungere una cosa: a questi programmi, fra virgolette, diciamo, forse contrari al, diciamo, o al governo o ad alcuni aspetti, vengono invitati anche persone a favore, cioè c'è dibattito, non è che mi pare siano solo contrari, mentre nei telegiornali. Miriam, tu cosa guardi di preferenza rispetto a questi allora, politici? Non è che ho una preferenza, è un po' una preferenza obbligata. Io guardo il TG1 per il semplice fatto che abito in una zona in cui, dopo l'avvento del digitale, non vediamo più niente. Davvero? Una delle fregature, diciamo, di questa cosa. O ogni tanto poco o male. E quindi io mi guardo il TG1, il TG2, perché non vedo proprio null'altro. Quindi ti hanno obbligata, non politicamente, non per legge, ma diciamo la tecnologia, esatto. La tecnologia al momento ti obbliga in questo senso. Grazie Miriam, che dici? Grazie a voi, Filippo. Buona trasmissione. Arrivi. Grazie a te. Sull'alternanza dei conduttori, questa proposta di un parlamentare del PD. Vi chiedo, vi capita mai di ritrovarvi di fronte a una questione così demenziale, così stupida che non trovate neanche le parole per spiegare la vostra contrarietà? Beh, siamo di fronte a uno di quei casi per quanto riguarda la mia di opinione, cioè stanno cercando di inventare ogni sciocchezza, ogni pretesto per fare un'operazione che io trovo stupida, che è quella di eliminare delle fonti di opinione e di informazione anziché cercare di moltiplicarle. Cioè, siccome non riesce il centrodestra da molti anni a fare una trasmissione speculare, a quella per esempio di Santoro, a quella per esempio di Floris. Perché non ci riesce secondo te? Com'è possibile? Non ci riesce per molte ragioni, perché ha un altro approccio culturale, perché sostanzialmente propone degli incapaci. E perché comunque chi comanda i fili, chi ritiene che debba esserci una trasmissione appunto orientata anche al centrodestra, ha una visione di come debba essere l'imparzialità che è comunque ancora più fanatica di quella contro cui si schiera. Cioè è vero, come dicevi tu prima, che tutto sommato, no, non lo dicevi tu, lo diceva la signora, che tutto sommato Miriam, per esempio Anno Zero certe volte è una trasmissione che non dico che sia neutrale, però è accettabile perché ci sono molteplici fonti. però viene ritenuta e trattata dal centrodestra come se fosse dalla A alla Z, dal primo all'ultimo minuto, solo un unico, per dire, intervento di Marco Travaglio, cioè una cosa assolutamente insopportabile e faziosa. Non è così. Il centrodestra, le uniche volte in cui ha tentato di fare dei programmi appunto targati centrodestra, ha fatto delle ciofeche, perché non capisce che un minimo di obiettività ci vuole. Il prezzo del caffè distributori automatici potrebbe crescere a breve di circa 15-20 centesimi. No, è una buona notizia. Sai me. Che è un ottimo caffè già quello, per cui io non lo, me lo dicono, perché io non lo bevo, a me il caffè non piace. La gente si rincoglionisce a tal punto a forza di caffè che forse così ne berrà di meno. No? Però c'è anche di contro una buona notizia, insomma una cattiva notizia, è meglio bilanciare anche qua per par condicio. Diminuisce il prezzo delle mimose, meno 20% lo trovi se volessi regalarlo a qualcuna... Madonna, che offesa terribile che è per una donna ricevere la mimosa. Con meno 20%. È come una scena che ho visto una volta a un semaforo. È presente quella scena? C'era il tizio, si avvicina il tizio con la mimosa, la porge all'uomo che gli dà una moneta, prende la mimosa, gliela passa stancamente alla donna seduta a fianco, senza stile, e ripartono, senza passione, come dire, mamma mia, no, veramente, ti è sto fiore, mamma mia. Squallidino, in quel caso, squallidino. La festa. Senti, della donna. Io però, poi ne parliamo, perché parliamo anche di quote rosa, che questa proposta di legge che sta tentando adesso di attraversare le forche caudine. Non ho ancora pranzato. No? Dici che potrebbe rovinarti lo stomaco. Poi ti faccio sentire una cosa interessante, però è detta da un uomo, non da una donna. Vedo l'ora. Adesso però ci colleghiamo con un altro pianeta. Sapete, questo è l'unica trasmissione al mondo, l'unico programma che ha anche un collegamento con un altro pianeta, perché non possiamo vedere solo le cose dalla Terra. Riflessioni da Marte. A volte il globo terracqueo, guardarlo da quassù, da Marte, insomma, suscita non pochi interrogativi. Tra i più assillanti vi sono, per esempio, questi qui di seguito riportati. Cosa sarà, secondo voi, che rende la faccia di Gheddafi nelle sue ultime comparsate TV, che sia vestito da carro allegorico o meno, che rende la sua faccia visibilmente paralizzata? La tensione o il botulino? Oh, cosa sarà? Cosa sarà? E poi ancora il delitto della povera Yara. Cosa sarà che spinge Vespa a investigare a lacrimente concipiglio d'ordinanza nel suo salotto, parallelamente agli investigatori, munito di bacchetta bislunga, non ancora del plastico visto che è ancora in fase di produzione, con l'ausilio puranco del commissario Crepè? Oh, cosa sarà? E poi cosa sarà spingere tre carabinieri a Roma a violentare in cella una giovane donna dopo averla arrestata per un piccolo furto, dicendo che lei però era consenziente? Sarà forse la convinzione del fascino irresistibile della divisa e il sospetto che lei si era fatta magari arrestare proprio per quello? Oh, cosa sarà? E ancora, cosa sarà che suscita tanta tenerezza negli uomini ultra settantenni, scatenando il loro istinto nonnesco nei confronti di una Ruby rubacuori? Sapete che l'ultimo invito l'ha ricevuto da un attempato magnate austriaco al ballo delle debuttanti. Cosa sarà, dicevo, tutta questa incredibile tenerezza nonnesca nei suoi confronti? Oh, cosa sarà? E in aggiunta, cosa sarà? Voi che siete umani, ditemelo, cosa sarà che spinge un plurimiliardario calciatore come Eto'o, che indossa pure le mutande di platino con diamante incastonato da qualche parte, a supplicare quasi lacrimevole a Milano, stato immortalato da un fotografo, una vigile di non fargli una multa per sosta vietata di 38,38 euro? Oh, cosa sarà? E cosa sarà portare un ministro tedesco alle dimissioni per aver scopiazzato parti della tesi di dottorato, quando in Italia diversi parlamentari, con somma originalità da copyright, compiono azioni ben più gravi e senza nemmeno bisogno di copiarle? Oh, e sarà forse tutto questo che fa dire all'astronauta Paolo Nespoli, da 4 mesi nello spazio, di avere più nostalgia della pizza che della Terra? Cosa sarà che ti spinge a picchiare il tuo re, che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è? Cosa sarà che ti fa comprare di tutto, anche se è di niente che hai bisogno? Cosa sarà che ti strappa dal sogno? Che ti fa uscire di tasca dei no, non ci sto. Che ti getta nel mare, ti viene a salvare. Oh, cosa sarà? E torniamo coi piedi sulla terra mentre Filippo Facci mi lancia penne. Possiamo denunciarlo per questo, visto che ormai va di moda. Posso, Giorgio De Luca adesso sta chiamando, mi dice la questura di Milano, senza pressioni per favore. E volevo farti sentire invece, caro Filippo Facci, a proposito di quote rosa, che è questa proposta di legge che sta tentando da anni in Italia di portarci a un livello un po' più su del Mozambico, perché siamo sotto il Mozambico per la rappresentanza femminile nella politica, come nei CDA, nei consigli di amministrazione delle società. Ebbene, forse è agli ultimi passi, forse ce la fa, anche se la stanno ridimensionando, stanno cercando di aggiustarla. E ti voglio far sentire, era un'intervista sul Corriere.it di qualche giorno fa, a Roger Abravanel, che è un top manager, che è un editorialista del Corriere della Sera, e ha dato un grosso contributo in Italia, anche all'estero, sul tema della meritocrazia. È stato uno dei primi in Italia a dire bisogna mettere delle quote rosa anche nei CDA, nei consigli di amministrazione delle società. Vogliamo sentire che cosa ha detto un uomo? Sentiamo. Io sono stato un po' l'ispiratore di un'idea di un'azione positiva a favore di più donne nei consigli di amministrazione. Ricordiamo che in Italia abbiamo il 4% di donne contro una media europea di 20 e poi 35-40 in Norvegia. La metà delle 4 sono le mogli, le figlie, le fidanzate. Perché io non è che sono amico delle donne, io sono amico delle imprese. E è stato dimostrato che avere più donne nei consigli di amministrazione migliora la governance, il governo delle imprese. E le nostre imprese italiane hanno un enorme bisogno di migliore governance, perché ricordo che l'ultimo report del World Economic Forum ci ha messo al 126esimo posto dopo il Mozambico come qualità dei consigli di amministrazione. La seconda ragione per la quale abbiamo bisogno di questa azione positiva è che io siedo in molti comitati nomine di consigli di amministrazione, siamo tutti maschi. Il momento che bisogna nominarne un prossimo, essendo tutti maschi, si pensa solo a un maschio. Perché c'è bisogno di un'azione positiva? Per un breve tempo, per portare qualche donna, dopodiché il sistema si autoalimenterà. Molto interessante, tu hai una faccia un po' così, diciamo, smorfia, non molto convinta, però dice due cose molto interessanti. Una, che siamo al 126esimo posto per rappresentanza femminile dopo il Mozambico. L'altra dice, una cosa che sostengo sempre, siamo tra maschi e a un maschio pensiamo. Che dice lei, Filippo Facci? Ci facci sognare, Filippo? Sinceramente sono combattuto, perché, allora, in linea di principio... mi verrebbe da avere il vizio di pensare a ciò che è giusto in linea di principio e quindi dire no, le quote rose non servono, perché l'unica cosa che funziona è la meritocrazia vera e propria, perché... In Italia non esiste la meritocrazia, diciamocelo. Beh, l'unica maniera però è sperare che esista, e lavorare perché esista, aspetta, interrompermi, e quindi niente quote panda e tutte queste cose qua. Da una parte, insomma, se però una persona è seria, vuole andare a vedere all'estero se le quote rosa funzionano, purtroppo deve accorgersi che funzionano, non c'è niente da fare. Dopo stringo la mano, Filippo Facci, se volete riprendere. In altre parole, non la reputa giusta, ma funziona. Molto bene, su questo non farei aggiungere altro. Filippo Facci ha detto una cosa assolutamente giusta, quindi è meglio non rovinarla in nessun modo. Giuseppe da Roma, il numero verde 800 24 00 24. Giuseppe, pronto Giuseppe? Giuseppe? Sì? Giuseppe. Filippo, prova. Oh, Giuseppe, finiscerai di mangiare noccioline. Giuseppe, vuol far vedere che sa fischiare. Va bene, dopo lo richiamo. Mario da Arezzo. Richiamiamo Giuseppe, che magari stava facendo la spesa. Mario? Sì, pronto. Eccoci, buongiorno. Mario. Buongiorno, Mario. Pronto. Sono lieto di poter intervenire dopo tanto, una trasmissione che seguo quando posso. Grazie, Mario. Anche quando non puoi, sarebbe il caso, ma insomma si fa il possibile. Ma grazie. Quando lavoro non mi è consentito. Mi spiace, ma allora, un po' di due cose. Uno, l'opposizione che io non condivido e che respingo, che ha fatto la Lega affinché non fosse festa per il 150esimo anniversario del sul 17 marzo, sì, che adesso chiede una festa lombarda, tipicamente lombarda, in cambio di questa concessione. Quindi, è veramente un'azione dirompente contro l'Italia d'Italia, sulla quale penso che la stragrande maggioranza degli italiani dovrebbero essere d'accordo. Ma la cosa veramente che non sopporto, cerco di essere calmo, è che calmo, il pretesto è stato di risparmiare i soldi. Sì. Allora, c'è una prima vecchia contraddizione, che questo, in questa luce era previsto anche l'abolizione delle province e loro, anzi, dal momento che loro nell'ottica dici di risparmiare soldi, era prevista l'abolizione delle province, sia una vecchia e di semplificare le cose, invece questo, che è il loro centro di potere vecchio democristiano, loro se lo tengono bene stretti. Ma la cosa più grossa, è più recentissima, appunto, che è in tema con l'argomento della trasmissione, che appunto della settimana passata, anzi questa, questa che è stato deciso dal governo di sdoppiare le elezioni, di non fare l'election day, il cosiddetto election day, quindi di fare le elezioni amministrative, quindi il 16 maggio, sì, di risparmiare i soldi, invece così si buttano via 350 milioni, almeno quanto sono le stime, per doppiarlo. Perché qual è l'obiettivo principale, unico, della Lega e anche del governo in generale? È quello di far sì che, sdoppiandolo e facendolo più tardi, dopo le elezioni, dopo il 12 giugno, andata a votare, al 100% il quorum non ci sarà. Perché dice la gente se ne va male. Invece, 12 giugno. Facendolo nello stesso giorno, le probabilità sono molto più elevate. Però l'obiettivo è politico, quindi qui i risparmi non contano. Grazie Mario, chiarissimo. Vediamo se Giuseppe si è ripreso, non sta solo fischiando, magari canta in questo momento. Giuseppe? Sì, sono in linea, mi ero fermato per evitare di riscontrarmi. Bravo Giuseppe, non si sa mai averti sulla coscienza anche. Ascolti, io sì, tra l'altro per la mia età ho conosciuto la radio, la televisione, quando erano molto distinte le notizie dai commenti. E io trovavo quello un modo molto nobile di fare giornalismo, il giornalista che riferiva la notizia senza metterci la sua opinione, e il giornalista invece che commentava la notizia mettendoci la sua opinione. Mi pare che questo tipo di informazione al cittadino si sia perso completamente. Vedo persone le quali non riescono a dire una frase con sintassi corretta, non riescono a pronunciare una parola straniera e con una dizione appena appena possibile, o di francese o di inglese, ma non le parlo di turco. Non portoghese, e però sì. Però si permettono di dire opinioni, cioè tutti sono diventati opinionisti, anche gli imbecilli, anzi soprattutto gli imbecilli. Grazie Giuseppe. E io amo molto il dottor Facci, che è molto caustico. Un innamoramento proprio questo, Giuseppe. Mi piacerebbe molto sentire a lui un commento a questa mia osservazione. Guarda, ti accontento immediatamente, per caso ce l'ho qua davanti, guarda, Filippo Facci, vai. Che i fatti un tempo fossero separati dall'opinione, che era un motto, diciamo, di Panorama... diretto da Lamberto Secchi, era appunto un must un tempo. Oggi non gliene frega niente, più niente nessuno. Io stesso lavoro in un quotidiano libero dove la differenza anche grafica tra opinione e commento, no, opinione e commento in questo caso hai è ragione, la stessa sì. cosa, è notizia, cioè, diciamo, nuta notizia e cruda. Fatto con eccetera eccetera, non è coglibile da nessun punto di vista. Però una cosa la voglio dire, proprio perché io ad esempio io faccio, lo dico e lo specifico sempre, l'opinionista, e quindi non ho l'arroganza, come dire, di star facendo, scrivendo o relazionando su cose oggettive, e proprio perché ho fatto per anni la cosiddetta gavetta, ho scritto di cronaca eccetera eccetera, le dico che non c'è niente però di più potenzialmente fazioso della cronaca, perché la cosa e la notizia più faziosa non è quella dove compare a margine una più o meno intuibile opinione, ma è quella dove c'è l'omissione, cioè ciò che non viene detto, ciò che non ti viene fatto sapere. Quindi dice il commento esplicito, si capisce che è un commento, mentre la cronaca uno pensa che sia lì, la settica cronaca è, invece sì, levi una cosa, può essere un capolavoro la cronaca di faziosità. Abbiamo trattato vari argomenti, tra poco c'è Roberto da Roma, poi c'è Ettore da Cremona. Filippo, sulla questione, so che non c'è molto da aggiungere, però a volte insomma l'ondata anche emotiva, sulla il delitto di Yara, vuoi dire qualcosa? Sì, voglio dire che invece ogni volta di guardare in televisione, al telegiornale, le notizie talvolta demenziali che hanno riguardato il caso Yara, per magari vedere la tizia impiegarci 3 minuti a dire non ci sono novità, oppure dire la notizia di oggi è che è venuto a trovare i genitori di Yara un'amica della cugina della nonna, volevo vantarmi pubblicamente, perché sennò nessuno insomma può apprezzarlo, dell'unica maniera in cui secondo me si può contribuire a far restare nei binari della decenza questo dibattito. Senti. Cioè non parlarne, cioè non intervenire. Mi hanno invitato a Matrix l'altra sera, gli ho detto no, non ci vado perché sennò sarei un buffone. Mi hanno invitato a un programma della domenica, un famoso contenitore domenicale del pomeriggio per domani, e gli ho detto di no perché sennò sarei un buffone, così come un buffone uno che va da questa trasmissione gli dice di appunto che non ci sarebbe dovuto andare o che non bisognerebbe andarci. E seconda e veloce considerazione è questa: certe volte io non riesco però a non ripensare, siccome ci sono tante ragazzine scomparse, ci sono tanti ragazzini scomparsi non ancora ritrovati, tantissimi, per loro ogni fortuna, tanto viene fuori, ogni tanto io non riesco a pensare allo stato d'animo alla sera guardando questi telegiornali di questi genitori che guardano elicotteri, battute di cani e fiumi dragati e sforzi sovrumani per la ricerca di, per qualche ragione misteriosamente mediatica, una sola persona. E mi chiedo se certe volte appunto non si chiedono, ma perché? Poi toccherà anche a mio figlio o alla persona comunque cara che io sto cercando, perché i giornali si concentrano su un caso solo e poi basta il nulla? Mi sembra un'osservazione pertinente, non perché non ci si debba occupare di Yara e di cercare i colpevoli e di aver poi trovato il suo cadavere, ma anche effettivamente io leggo ogni tanto i dati, ce ne sono moltissimi e quasi non ci credo al numero esorbitante di minori che scompaiono ogni anno in Italia. In tutto questo, perché tieni la cuffia al contrario con la parte che andrebbe in testa di sotto con una specie di barba? Io non ho la cuffia al contrario, volevo giusto chiederti, per qualche ragione tu la metti al contrario, cioè... perché si appoggia sulla capoccia e quindi non mi scende oltre la mascella, diciamo, volitiva. Quello che sto facendo. Anche tu, vabbè, ognuno al modo suo, sapete che è un po' controcorrente il nostro Filippo Facci. Sentite un boom, a un certo punto gli scivolerà, secondo me, questa, sì, la vedo un po', ecco, precaria. Adesso la mette sugli occhi, così non ci guardiamo neanche più sugli occhi. Cosa l'ho invitato a fare qua? Allora lo chiamavo. Infatti. Al telefono. Roberto da Roma, chiamo te al telefono, Roberto, 800 24 00 24. Roberto? Sì. Buonasera. Buonasera, Roberto. Senta, devo fare un brevissimo commento sul discorso delle quote rosa. Aspetta Roberto, faccio partire il cronometro di Filippo, sì. Perché ha detto brevissimo, quando uno dice brevissimo io mi preoccupo sempre. Ce l'ho anch'io il cronografo, sì. Prego? Vai Roberto. Posso? L'ho fatto partire, sì, no. Puoi. Prego. Ecco, no, quello che volevo dire, insomma, trovo che sia scandaloso che si parli di quote rosa, insomma, mi sembra veramente una forzatura che non è in linea con i tempi. Siccome, nel senso che i tempi sono quelli degli uomini da sempre, quindi lasciamoli così come sono, questo vuoi dire, Roberto? No, assolutamente. Ah, no, volevo dire che sembrava. Sarebbe ora, siccome la soluzione ai problemi è un fatto di materia grigia e non di sesso, fossi donna mi batterei con tutte le mie forze affinché la società sappia prendere in considerazione che cos'è il talento, piuttosto che avere delle quote, cioè delle percentuali di donne che per statuto debbono stare in certi posti senza tener conto se poi quelle persone sono in grado o meno. Ma io immagino, scusami Roberto, immagino che se si fanno le quote rosa sicuramente saranno in pole position per certe cariche delle donne che hanno dimostrato, non è che vanno a prendere, spero, non è che ci sarà di nuovo il sistema di selezione della classe dirigente fatto in un certo modo, come magari sì, qualcuno intende, sì, ma in altri voglio sperare. Però Bravanel, il top manager che parlava prima, non so se l'hai sentito, diceva una cosa molto intelligente, che il nostro paese continua così da anni e dice se non immettiamo le quote rosa rischiamo di essere così dopo non solo il Mozambico ma molti altri paesi considerati il terzo mondo anche tra 20 anni. Ma dice questa cosa interessante, no? La metafora è quella di un fiume: se in un fiume o nel mare non ci sono più certi pesci, non sono rappresentati, eppure dovrebbero esistere, se cominci a mettercene una certa quota, poi dopo va da sé e dopo si riequilibra la situazione, non ci sarà più bisogno di una legge imposta in questo modo. Però beh, prima questo, bisogna... Questo non è vero. Dici di no? No, cioè, si rischia sempre di andare indietro. Se mancano dei pesci c'è una ragione biologica precisa legata probabilmente alla catena alimentare. Se tu li rimetti, vabbè, sui pesci le donne non si mangiano, anche se a volte si violentano, insomma. Ma comunque, senti, facciamo, Paolo, mi rimetti per favore l'intervista da Bravanel. Roberto, rimani, volevo cercare di fare una metafora un po' così, abbiamo parlato del coguaro all'inizio, vediamo se Roberto, risentendo magari il top manager editorialista del Corriere della Sera Bravanel, che è stato uno dei primi a parlare di quote rosa. Sentiamo. Io sono stato un po' l'ispiratore di un'idea di un'azione positiva a favore di più donne nei consigli di amministrazione. Ricordiamo che in Italia abbiamo il 4% di donne contro una media europea di 20 e poi 35-40 in Norvegia. La metà delle 4 sono le mogli, le figlie, le fidanzate. Perché io non è che sono amico delle donne, io sono amico delle imprese. E è stato dimostrato che avere più donne nei consigli di amministrazione migliora la governance, il governo delle imprese. E le nostre imprese italiane hanno un enorme bisogno di migliore governance, perché ricordo che l'ultimo report del World Economic Forum ci ha messo al 126esimo posto dopo il Mozambico come qualità dei consigli di amministrazione. La seconda ragione per la quale abbiamo bisogno di un'azione positiva è che io siedo in molti comitati nomine di consigli di amministrazione, siamo tutti maschi. Il momento che bisogna nominarne un prossimo, essendo tutti maschi, si pensa solo a un maschio. Perché c'è bisogno di un'azione positiva? Per un breve tempo, per portare qualche donna, dopodiché il sistema si autoalimenterà. come si diceva, Ettore da Cremona, 800 24 00 24, per le vostre notizie della settimana, che siano sulla politica, che siano sul ministro Copione che si è dimesso in Germania, che siano sul federalismo, se ci avete capito qualcosa e cosa ne volete dire sulla scuola pubblica. Sapete questa affermazione che ha suscitato non poche polemiche del Presidente del Consiglio sulla scuola pubblica, ma tu Ettore che notizie hai? Pronto? Sì, sono qua. Ma io volevo dire questo, che sono d'accordo con le indicazioni che dava lei prima, riportando quelle notizie di quel quotidiano che adesso mi sfugge il nome. E che notizie erano, scusa Ettore? No, quelle sulle quote rose. Ah, sì. La notizia appena riportata. Presa dal Corriere della Sera.it, sì, un'intervista fatta, esatto. Da Bravanel. Ecco, e mi è piaciuta molto la considerazione del fiume, dove se non ci sono pesci per... Grazie Ettore, così Filippo Facci si arrangia, che non gli era piaciuta questa metafora. Mi è piaciuta tantissimo. Grazie. Però credo che a monte ci sia qualcosa d'altro da fare. Per cui io sono d'accordissimo sulle quote rosa, perché altrimenti... gli uomini scelgono gli uomini, sempre. Di principio non riesci a prendere forza nella realtà. Però credo che oggi ci sia qualcosa di più da fare. Cioè, mi riferisco in modo particolare a un rinnovamento della classe politica, del modo di pensare, certo. La politica, del modo... Cioè, io ho letto recentemente, anche perché non voglio essere accusato di plagio, un articolo che mi è piaciuto tantissimo. No, non credo che ti accuseranno di plagio. Che no, cosa dice? Di Ignazzi, sì? Che dice che... a tutt'oggi Berlusconi, nonostante le promesse non mantenute, nonostante le chiacchiere, nonostante le ragazzine, eccetera, eccetera, nonostante tutto, regga perché l'opposizione non riesce a dare un'alternativa. E quindi io penso che, detto ciò, è vero, perché non... oggi la gente è stufata dalla politica, ma da tanti anni della politica, non solo dal centrodestra, non solo dal centrosinistra, probabilmente uno schifo che viene da lontano, e rispetto a tutto questo la politica non ha saputo rigenerarsi, ivi compreso le quote rose. Grazie Ettore, mi pare un ragionamento piuttosto brillante il tuo e opportuno, ma volevo chiedere al Filippo Facci. Filippo, ho letto ieri che Feltri, il tuo direttore, condirettore di Libero, ha detto: se fossi di sinistra, adesso parlava Ettore di opposizione, insomma non ha al momento una certa solidità, se fossi di sinistra, ha detto Feltri, andrei a riprendermi Prodi. È stato l'unico, Feltri, dice, che è riuscito a battere ben due volte. Beh, sì, è chiaro che... Beh, però è interessante che anche uno che non sia di sinistra, che... uno che sia di destra, dica dall'altra sì, parte. Allora, non è di... No, ma non è di sinistra ed è di destra, si tratta anche di capire quale destra, quella di Feltri, e lo dimostra proprio con questo consiglio, teso e proteso ad assicurare alla sinistra altri 20 anni di fallimenti. Ah, tu dici, quindi che è un consiglio, è un sabotaggio, assolutamente interessato. Un cavallo di Troia, secondo sì, te, perché questa cosa. Voglio dire, l'immagine negativa che ne ha tratto lo schieramento di centro-sinistra dall'ultimo governo Prodi, che è stato inopinatamente disgraziato e proprio non c'è sondaggio che non l'abbia dimostrato, è irrecuperabile. Senti, secondo te, tu te la faresti una casa un po' stile Batman? Me la sono già fatta. Ce l'hai già fatta la casa? Sì, infatti, ce la siamo fatta. Senti, perché ieri ne parlava Massimo Gramellini, ma è notizia di ieri, non aggiungere cose controverse. E dice, sai che è coinvolto, diciamo, il figlio di Letizia Moratti, della sindaca di Milano, Gabriele, in una questione di ristrutturazioni insomma irregolari. No? E Massimo Gramellini ricordava ieri nel suo Buongiorno che... ha voluto fare questa ristrutturazione prendendo 5 capannoni nella periferia milanese, facendo questa villa, e si sarebbe fatto costruire dall'architetto, avrebbe detto questo: un ponte levatoio, una camera da letto con mobili in pelle di squalo, una botola motorizzata e un bunker sotterraneo, un ring di boxe regolamentare e un poligono di tiro insonorizzato. L'importante è che poi anche i muri siano, oltre che insonorizzati, non vada fuori. Questo è il figlio di Gheddafi? No, di Letizia Moratti. Ah, ho capito. Vedi, non mi segui quando parlo. No, non è che non ti seguo, mi sembra una cosa da satrapi orientale. Tutto qua. Abbiamo allora a questo punto un provocatore, vediamo se scuote il nostro Filippo Facci, che è Stefano Andreoli, l'ideatore di questo blog di satira politica straordinario, cliccato da tutti a livello internazionale, si chiama spinoza.it. Caro Stefano, buongiorno. ma Roberta, cosa fai ancora lì? Io pensavo che avrei trovato un altro conduttore, non so, Platinetta, l'alternanza, Aldo Forbes, qualcun altro. Sì, sì, mi hanno chiesto. Invece, beh, ti trovo ancora lì, dunque, un saluto a Filippo Facci. Però intanto ho invitato me. Ho invitato Filippo, dice che mi manda, mi alterna. Un saluto a Filippo Facci che ammiro e con cui condivido moltissime idee, soprattutto su gatti e mimose. Guarda, Filippo lo dice a tutti, dice condivido le sue, ogni ospite che ho condivido le sue idee. Vabbè. Ho detto quelle su gatti e mimose. Ah, va bene, le altre potremmo discutere forse più a lungo. Una settimana piena, ville di Batman. Da oggi rinuncio a gatti e mimose. No, almeno i gatti no. Non voglio avere niente a che spartire. Beh, i gatti, io quando vedo un gatto non capisco più niente. Prego Stefano, sì. Dunque, dicevo, settimana piena ville di Batman, ma una delle notizie più curiose, la Rai sospende lo spot del film Silvio Forever. Sì, quello di Faenza, Roberto Faenza. Esatto, Faenza, era pubblicità ingannevole, quindi giustamente è stata, è stata sospesa, perché Silvio Forever, capirete che ha anche le sue ragioni, ma non lo so, a non essere proposto. Ma. Venendo un'altra notizia che oramai tiene banco un po', ci siamo un po' tutti stufati, ma continua a fare notizia, Ruby invitata al ballo delle debuttanti a Vienna. Ruby al ballo delle debuttanti entra nel salone e si è stupita di non trovarci il palo, perché ovviamente era abituata a un certo tipo di balli. Una notizia curiosa, visita dell'8 maggio a Venezia del Papa. Due sarti mandano un preventivo di 290.000 euro per i vestiti del Papa. Sei sicuro? Non è che mi stai dando una notizia faziosa? No, no, è la verità, ma due sarti, ma specifichiamo, senza alcun legame due sarti. Senza alcun legame con il Vaticano, hanno di loro iniziativa inviato un preventivo alla Regione Veneto per i paramenti di questi degli ospiti del Papa. Necessari, sì. E 290.000 euro, considerato che con la stessa cifra si poteva avere Lady Gaga, secondo me Venezia potrebbe considerare meglio quale ospite scegliere. Ognuno sceglie come crede, sì? Un altro punto, in cui mi tocca essere d'accordo con Filippo Facci, ma lo sono volentieri, è che effettivamente non c'è nulla di più fazioso della cronaca, il modo in cui tante volte si presentano i fatti è già sufficiente a darne una visione più che schierata, per cui di acrobazie se ne vedono, e parlando di questo, Emilio Fede si è detto geloso di Minzolini. Sì, è vero. Ha detto sì, Berlusconi preferisce Minzolini a me, diciamo così, ed è, d'altronde dovrebbe saperlo che al capo piacciono giovani, per cui non c'è nulla che stupisce giovane, in questo. Minzolini, vabbè, più giovane. Andiamo avanti, vediamo su notizie un po' più leggere. La popolazione cinese sale a 1.341 milioni. Quindi pesa al di là della leggerezza, sì. Esatto, e questo è pure l'anno del coniglio, cioè, quindi immaginate voi come potrà l'anno essere del coniglio fine, è molto come potrà essere a fine anno, per prolifica, per resto, sì. Nessuna sorpresa, sappiamo tutti che i cinesi sono maestri nelle riproduzioni. Quindi, sì? un'ultima notizia. Bene. Rilacciandomi a quel che ha una questione sollevata forse dal primo ascoltatore che è intervenuto, Crack Sirio chiesti 15 anni per Cragnotti e 8 per Geronzi, sì, che però resta in carica a Generali. È un po' come nel water, quelli più grossi fanno sempre molta fatica. Molto bene, grazie a Stefano Andreoli e via la mannaia. All'ultimo, io la invoco più volte, non scende. E adesso direi, caro Filippo, di sentire velocemente Pietro da Roma. Pietro, dulcis in fundo, ma brevis. Pietro? Salve. Grazie, salve Pietro. Buongiorno a tutti. Riesci in pochi secondi, Pietro? Sì, grazie, faccio velocemente. Vabbè, intanto sono d'accordo con Filippo Facci. Oggi è proprio oggi l'ho sbagliato proprio tutte. No, chiaramente non sempre, lo devo dire. Però oggi sono d'accordo con Filippo nella questione di Yara, eccetera, eccetera. Ha fatto benissimo a non presentarsi alla trasmissione. Sono perfettamente d'accordo. Oggi sembra quasi... Non voleva presentarsi neanche qui, però. Però, insomma, queste cose sono diventate veramente una cosa insopportabile. Mi sembra, tanti anni fa c'era un giornale che si chiamava Cronaca Vera. Ma c'è ancora? È un mito. Ecco, e quindi è praticamente di telegiornale è quasi un Cronaca Vera. Si chiama Chi adesso? Ah, vabbè. Esatto. Grazie, quindi... Pietro, perdonami Pietro, grazie mille. Settimana prossima puoi richiamare Pietro, Giorgio De Luca, se richiama, non diciamo che è già stato. Allora, io adesso direi, perché dobbiamo subito avvicinarci al prossimo appuntamento con Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma, alla quale sottopongo questa settimana questa parola. Si parla molto di conflitto di interessi, conflitti istituzionali, conflitto, direi che conflitto anche perché Fini diceva in questa intervista Porta a Porta, anche Bossi, ma diceva: Berlusconi ha bisogno sempre del conflitto, prima sono i comunisti, poi un'altra cosa, prima o poi saranno gli alieni. Adesso io non so se si interesserà anche a UFO Berlusconi, però parliamo di conflitto. Conflitto, Valeria. Conflitto. Allora, conflitto, naturalmente la parola viene come al solito dal latino, ma la cosa interessante è che fino al 300 significava solo e unicamente scontro armato, poi dal 600 già con Giordano Bruno ha acquistato un nuovo significato, cioè quello di contrasto, opposizione. Naturalmente solo dal 900 la troviamo usata nella psicanalisi e quindi per indicare l'opposizione tra desideri consci e inconsci. Poi ne sono nate le varie parole, conflittuale, conflittualità, eccetera, eccetera. Ora, la cosa singolare è che la parola conflitto gode in questo periodo di immensa popolarità. Se facciamo la prova e digitiamo nel più famoso motore di ricerca, troviamo 3.900.000 risultati. E questo grazie proprio a quello che dicevi, no? Al fatto che si usi questa parola in infiniti casi e soprattutto per il conflitto di competenza, il conflitto di attribuzioni, ma direi in modo particolare per il conflitto di interessi. Chiudo qui con questo finale. Insomma, vorrei che si potesse tornare prima o poi a usare la parola con un valore più normale e quindi aspiro a un periodo nel quale più che di conflitto di interessi o che del conflitto di cui parlava Fini ci si possa occupare di conflitto di sentimenti e solo di quelli. Ah, ci picchi, anche quelli però sono conturbanti. Grazie Valeria Della Valle. Grazie a voi, arrivederci. Ciao Valeria. Filippo, abbiamo questi 33 secondi in cui puoi sbizzarrirti con una certa moderazione, diciamo, visto che siamo in chiusura. Ah, di la così, verità a caso, è passato totalmente velocemente. Guarda, c'è Lele Mora, per esempio, che beh, ha chiesto, sì, da dice, quando mi sono risvegliato, e devo dire che è abbastanza, vero? Sì, è andato velocemente. No, no, mi ha colpito molto quest'ultima frase sul, sì, conflitto. Com'è il conflitto dei sentimenti? Beh, no, ma ti infatti, senti cioè, piuttosto conflittuale, ami più un gatto che l'altro, tutte queste amanti, questo capisci, è complicato. No, però insomma, io poiché insomma scrivo sul libro e sono comunque tacciato di faziosità a mia volta, è giusto che dica un'ultima cosa. Ho sentito appunto questa critica su Silvio Forever, che io sono indignato, perché insomma Silvio Forever mi sembra una, come dire, una definizione che lo stesso Silvio troverebbe terribilmente pessimistica. Molto bene, grazie Filippo Facci, poi lo scopriremo solo vivendo. Filippo, ti aspetto prossimamente, forse vale la pena di riacciuffarlo. Intanto, da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti a tutti.